Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Il tentativo di fare un discorso generale sui ventenni è perlomeno avventuroso. Se il sesso, per esempio, domina parte delle loro azioni, è un sesso che ha 100 problemi e 100 facce diverse. Ciao, che cosa fai oggi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Lasciami stare, non lo vedi che sei vecchia? Sei vecchia, io voglio vivere la mia vita, lo capisci? Voglio vivere la mia vita. Tu che cosa facevi? Cosa facevi quando eri come me? Voglio fumare, va bene, allora? Cosa provi quando stai con una femmina? In che senso? Quando la possiedi. Provo il piacere fisico dalla soddisfazione della carica. Basta, basta, io esco. E che mi ha capito, pronto. Mentre per tutti sarà stato facile e immediato riconoscere Fiorello che parla dei giovani suoi contemporanei, forse qualcuno farà qualche difficoltà a capire chi sono i due ragazzi con accento siciliano che vi posso dire ballavano tra di loro, perché nell'anno 1962 in alcune luoghi della Sicilia gli uomini ballavano tra di loro, le donne tra di loro. Ancora esisteva questa apartheid, mentre salendo semplicemente nella riviera romagnola le ragazze già la davano tranquillamente quando gli piaceva un ragazzo. Questo era un grande contrasto, anno 1962. Un desiderio di raccontare la gioventù. Oggi abbiamo i giornali pieni questa mattina di giovani manganellati, di giovani che comunque rivendicano il loro diritto di andare in piazza, lecito, sacrosanto, nessuno glielo niega, ma fanno esattamente quello che facevano le loro mamme, forse anche le loro nonne, le loro zie. Sembra qua ci sia un passaggio di testimone che sclerotizza, immobilizza la gioventù in una sorta di rituale, nel ripetere sempre le stesse cose. E in questo déjà vu, in questo ritorno eterno del problema giovani, dell'osservatorio sui giovani, di quello che fanno i giovani, sui giovani speranza del paese, noi oggi vi riproponiamo un documento molto particolare. È un film quasi sconosciuto, se ne parla poco ultimamente, è un film che compie esattamente 50 anni. È un film che per la prima volta gli italiani videro nel 1962, I Nuovi Angeli di Ugo Gregoretti. Ugo Gregoretti, un lettore fantastico e singolare del nostro paese, che per 50 anni l'ha visto, guardato, osservato, raccontato, perlomeno finché glielo hanno fatto fare, allora fece un viaggio e osservò e fece un film sui giovani italiani. Voi direte, ma che ce ne importa di sentire quello che accadeva nel 1962? È un altro mondo, l'Italia è cambiata, il paese è cambiato. Allora c'erano problemi, si dicevano cose che oggi non si dicono, che non fanno parte del nostro quotidiano. Beh, immaginatevi quanto potesse essere difficile raccontare nel 1962, in epoca di totale, granitica e immarcescibile egemonia democristiana, questo dialogo tra due giovani siciliani che cercavano lavoro. Chissà se la lettera arrivò. Certo che arrivò. Un mese fa Don Calogero scrisse all'onorevole. E chissà se l'onorevole fece lo suo dovere. Ma tu sei fissa, senza raccomandazione alla Montecatina non si è. Ma qua se non conosci un onorevole, un assessore regionale, un arcivescovo, cosa vuoi fare? Se non hai raccomandazione in Sicilia, un ne vuoi trasere? Io, l'onorevole che mi raccomanda, l'ho trovato, perché ci ho fatto dare i voti. E tu? L'hai trovato un uomo politico o ecclesiastico? Ma so stare che tu perlomeno scemo, Ti sei fatto raccomandare da Don Calogero? Ma non lo sai che i mafiosi controllano ormai soltanto le banche e l'azienda locale? Ma non dire fesserie, che Don Calogero ha scritto all'onorevole. Ma tu sei sicuro che Don Calogero ci ha scritto all'onorevole? Quello, Don Calogero, ha perduto il controllo dei voti da quando c'è il nuovo arciprete. E dall'arciprete doveva andare, perlomeno tiene in mano mezza provincia. Io dall'arciprete mi sono fatto raccomandare. Ieri il nuovo governatore della Sicilia Crocetta era ospite di Giletti al programma domenicale per famiglie, ma non sentì veemenza e forza quanto ne ho sentito in questa denuncia, in questa storia, per cui già da allora si sapeva che comunque il lavoro, il passaggio, il veicolo di emancipazione di un giovane siciliano doveva passare attraverso la mafia o attraverso l'arciprete. Questo film è talmente importante alla sua riscoperta che domani sarà presentato dal CNR, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla Sala Marconi a Piazza Aldo Moro, domani pomeriggio alle 16, sarò anch'io e Gregoretti parlerà del suo film, ma questa mattina per grande cortesia è qui da noi in studio. Ugo Gregoretti, buongiorno. Buongiorno. Fu difficile fare questo film? Soprattutto, farlo no, ma mandarlo poi per le sale? No, ebbe... Diciamo, io già avevo una rinomanza non negativa come conduttore di un programma televisivo che facevo qualche mese prima, che si chiamava Controfagotto. I Nuovi Angeli è stato il tentativo di fare una finta inchiesta di stampo televisivo. Finta perché in realtà erano i ragazzi che interpretavano se stessi, interpretavano, quindi era un film episodi. Non c'erano attori professionisti, pochissimi perlomeno. No, nessuno. Nessuno, erano tutti... Ti ricordi? No, ce n'era uno solo, che fa il capo officina vecchia maniera nella fabbrica di automobili a Milano. Gli altri erano soprattutto i giovani, giovani dai quali io mi facevo raccontare tre giorni prima di iniziare a girare questo o quest'altro episodio, mi facevo raccontare degli aspetti salienti della loro esperienza, li sceneggiavo così al volo sul tamburo, glieli facevo recitare. Quindi è un'inchiesta a tutti gli effetti. A tutti gli effetti, sì, è un'inchiesta, però voglio dire girata come se fosse un'inchiesta televisiva, invece è tutto ricostruito, però su fatti veri, in ambienti veri e con persone vere. Quello che in maniera molto meno poetica ha fatto Santoro 40 anni dopo è stato acclamato, la grande scoperta del giornalismo d'inchiesta, lei lo faceva già nel 61. Ma non lo so, può essere. Mi viene da pensare che in realtà allora forse non si è accorso, questo era un film spietato nei confronti di quello che era il potere costituito. In televisione una cosa del genere non sarebbe mai potuta passare, un attacco così diretto a certi legami molto stretti fra in certe regioni, soprattutto dell'Italia, Sicilia, dove praticamente il capo mafia con la doppietta al collo si divideva l'egemonia del territorio insieme all'arciprete, e si parlava di controllo di voti per poter permettere ai ragazzi di lavorare poi nelle fabbriche del nord. Sì, ma queste erano cose che bastava parlare col corrispondente dell'unità, o da Favara, o da Raffadali, o da Inchianti, che era l'unico del quale io mi fidassi. Lei era comunista al tempo? No. Io quando feci Nuovi Angeli, casualmente, a Porto Ercole, vidi un omino che mi veniva incontro con una signora e gli arrancava dietro, e poi quando fu a portata di sguardo mi accorsi che era Togliatti. E l'altro era Nilde Iotti. Togliatti aveva visto... Erano clandestini ancora oppure già si sapevano? No, stavano all'hotel Hotel Filippo II, dove ero ospite anch'io, e Togliatti aveva visto i Nuovi Angeli. E cosa gli disse Togliatti? Mi fece molti complimenti, dicendo lei ci ha rivelato... Togliatti, il segretario del Partito Comunista, aspetti nuovi della classe operaia che nessuno ci ha segnalato. Beh, l'aspetto nuovo era che gli operai volevano fare gli impiegati. Infatti, che in realtà il passaggio è questo: i contadini scappano dalle campagne per andare a lavorare in città, la famiglia toscana che poi sentiremo, e gli operai se la prendono col loro collega e conterraneo, dice, come tu fai l'impiegato, non mi hai detto nulla, perché l'impiegato era tutta un'altra vita. Certo. Voleva dire avere la cravatta e il colletto bianco, ma non è che poi cambiava sostanzialmente. Quindi iniziò allora questa deriva verso il disprezzo per i lavori materiali. I giovani sono diventati sciusi perché allora da braccianti agricoli diventarono operai, e da operai diventarono impiegati. Infatti diventava borghese, cioè si avvicinava sempre di più ai modelli prodotti. Togliatti non capì che il vero problema non era il capitalismo, ma l'aspirazione a diventare borghese della classe operaia. E Togliatti lo capì a suo dire attraverso il mio film, e poi andando via disse: non sono d'accordo con Paglietta, anzi glielo dirò, perché a Paglietta non era piaciuto, perché evidentemente non c'era la classe operaia. Sì, non fanno una grande bella figura la classe operaia, perché in realtà era solo un punto di passaggio per diventare qualcos'altro. Il vecchio capo operaio, che vi facciamo sentire adesso perché è interessante, che aveva fatto tutto l'iter, era stato sotto il duce, aveva prestato la chiave inglese al duce, aveva stretto il bullone, viene chiamato dall'assistente sociale perché qualcosa sta cambiando. Lui non può più usare quei suoi sistemi paternalistico terroristici nei confronti dell'operaio, perché l'operaio è una classe che va trattata bene. Dica, signor Renzetti, lei ha notato una certa differenza fra gli operai della sua epoca e quelli di oggi o no? Non me ne parli, ai miei tempi una pedata nel sedere e via Laura. Oggi cine, tele, frigo, moto, tunet e Laura poco. Male, signor Renzetti, molto male. Questo è contrario agli interessi dell'azienda. Da tutti gli elementi che lei mi ha dato, io devo dedurre che i suoi rapporti con gli operai sono nettamente controproducenti. Ma cosa vuole insegnare a me dopo 30 anni a far andare avanti l'officina? Lei dovrebbe sapere, signor Renzetti, che adesso orientiamo i nostri sistemi produttivi con altri criteri, in quanto prima bisogna fare delle analisi di mercato e poi rendersi conto come meglio impostare il ritmo produttivo in modo da averlo sempre costante. Ma cosa c'entra il colombo in tutta questa storia qui? 800 24 00 24, cominciate a chiamarci, vedo già molti messaggi, carino, via sms, di persone che hanno visto questo film, l'hanno visto con interesse. Quali sono stati, secondo voi, punti chiave, i passaggi del nostro paese per cui oggi stiamo analizzando, come sempre facciamo sotto il microscopio, una classe di giovani cercando di scoprirne le particolarità che poi in realtà sono le stesse caratteristiche che Gregoretti guardava e osservava con divertito interesse degli anni 60. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Sansonna ci ha sempre seguito nell'analisi del nostro paese attraverso il cinema, attraverso la commedia, attraverso anche il cinema di genere. Noi siamo sempre stati dell'idea, l'abbiamo fatta nostra questa filosofia, che in realtà l'Italia si è raccontata con molto più coraggio negli anni dal boom a, diciamo, i primi anni 80. Poi sono cominciate queste mistificazioni, la storia siamo noi, queste monocrazie di racconto dell'Italia a senso unico, attraverso il cinema. Tu hai visto questo film e diamo innanzitutto un'inquadratura di Gregoretti, perché è importante che il pubblico sappia con chi abbiamo a che fare. Gregoretti è un caso più unico che raro, è un onore averlo qui, perché è stato un incursore di linguaggi vari, con sempre accompagnato da questo umanesimo delicato. Cioè, negli stessi anni c'era stato Mondocane un anno prima, che però era fatto dal nicciano Jacopetti, che osservava l'umanità da tutt'altro lato, con un fondo di sfiducia, di pessimismo. In Gregoretti non c'è la retorica, quella che, di cui accennava, di Paglietta, della classe operaia, che deve essere... Beh, c'è molta più bestialità nei primi piani di Gregoretti, di persone qualunque, che nelle orripilanze andava cercando il mondo, sì, cane. Però c'è anche amore, c'è Cipriano Maresco che si ferma prima di precipitare nell'abisso, quando quei primi piani meravigliosi siciliani che lui ha cercato andando 3 giorni prima, come ci raccontava, sono realizzati con molto amore. E tra l'altro è interessante che siano prodotti da Alfredo Bini, mi raccontava prima il maestro. Cioè, Accattone e I Nuovi Angeli sono due film gemelli, nati nello stesso momento, con la stessa truppa e con lo stesso amore verso l'umanità. Questo è molto interessante, molto affascinante. Il dialogo della clip che abbiamo ascoltato è bellissimo, perché c'è il caporeparto che è vecchio stile, ma c'è anche il nuovo potere della fabbrica che invece vuole blandire gli operai per mantenere il ritmo di produzione alto. E questo era molto anticipatore, molto curioso e molto interessante. E questo, secondo lei, Gregoretti, che ha capito gli atti, che qualcosa stava cambiando ancora prima che cominciasse. In realtà quell'assistente sociale che striglia il vecchio e antico operaio, che ancora parla del padrone, e questo trattamento umano degli operai che devono avere anche la felicità, sono quasi comprendono che la catena di montaggio sarà fermata perché un operaio si era sentito vessato dal capo officina, che qualcosa stava cambiando. L'operaio era stato, a suo giudizio, rimproverato ingiustamente. Lui era addetto alla rifinitura degli sportellini del cruscotto, che richiedeva 9 colpi di martello distribuiti qua e là sulla superficie, e lui invece ne dava 11 oppure 8 o 7. Succedeva che, passando da quel reparto al reparto successivo della catena di montaggio, anzi alla stazione successiva, che era la verniciatura, si tentava di montare lo sportellino sul cruscotto, o non c'entrava o ci ballava dentro, e allora così automaticamente bloccavano l'auto a cui lo sportellino avrebbe dovuto appartenere. Quindi il malumore di un operaio che martellava aveva bloccato la produzione, perché la catena si era fermata, che era come un fiume. C'era questa immagine simbolica, cioè, a valle, a monte del fiume, sì. poi facevano 60 macchine al giorno, non è che era... perché dice ferma un terzo della produzione o 20 macchine. Sì, quindi, beh, insomma erano... era l'auto bianca. Tecnologie era. Meno, come dire, meno affrettate. Come era l'auto bianca, vero? Era l'auto bianchi, sì. La bianchina, stanno costruendo la bianchina. E io ero... riuscì a ottenere di girare quella catena di montaggio perché presentandomi al padrone a un certo punto scoprimmo che eravamo stati compagni di scuola, anzi di banco a Roma, e allora sulla base di questo lontanissimo sodalizio ebbi la innocente a mia disposizione per un... Allora era facile entrare con le truppe nei luoghi di lavoro, in generale girare. Ancora non c'era l'idea della televisione che era uno strumento invasivo e forse anche nemico. No, il cinema era entrato una sola volta, però molto marginalmente, in un ambiente operaio, nel film Boccaccio 70, nell'episodio Monicelli intitolato Renzo e Luciana, che era la storia di... due coniugi, marito e moglie, operai, lei però faceva il turno di giorno, lui quello di notte e viceversa, praticamente non potevano mai consumare il loro sponsale. Ecco, a proposito di consumazione, c'è un fatto importante che è anche quella che è l'emancipazione carnale dell'Italia. Lei pone come contrapposizione estrema i due mondi, i due estremi, la Sicilia arretrata e la Riviera Romagnola, che allora era il massimo dell'emancipazione. In Sicilia c'erano questi uomini che ballavano tra di loro, era realmente così ancora negli anni 60? Sì, sì. Che arrivavano a 20 anni ancora vergini, se non che arrivavano al paese una volta l'anno, due anziane però molto materne signore, e provvedevano alla bisogna. E finalmente, un giorno, verso la fine dell'estate, quando quasi non ci si pensava più, arrivarono. E uno solo, di fronte al cimitero. E quanto sono? Due. E quanto volano? 600 lire. I visti? No, Tony. Raffaele ha detto che sono un pone continentale. Sei uomo? No, dall'Oriente Secolo. Sì. A Messina. Ci volevo io. Andiamo. E finisce di tremare, che mi stai facendo tremare pure a mia. Avanti, convinciti. Oh, bravo. Ecco, così. Avanti senza paura. Tonite, piace? Insomma, la volete venire voi altri? Io è mezz'ora che ci combatto. Pure voi altri, che cosa siete? E gliete venne, no? Non avete comprensione. È una questione psicologica, no? Avanti, Beto mio, vieni. Vieni qua. Non vuoi venire? Beh, vuol dire che non sei maturo. Però i soldi non ti togno più, Vuol dire che l'anno prossimo si rifà l'esperimento. Come le venne in mente Rigoretti questa rivolta delle donne, che poi fu presa nel film Malena tale quale? Le donne di Malena che cacciano la bellissima attrice, erano esattamente le vecchie del paese che cacciano le due povere prostitute, un ragazzino poi le prende a sassate. Rispondeva veramente a verità questa cosa, che le donne cacciassero le prostitute dai paesi quando passavano? Assoluta verità. Era quello che in genere il fomentatore... Non erano la Bellucci comunque, erano due signore poverine. Io le avevo cercate. Erano vere prostitute. A Palermo, sì, sì, nel luogo, mi accompagnò l'editore Flaccovio e andammo in una zona dove, come dire... C'erano queste due signore, placide. C'erano queste due signore, le parlamentammo, trattammo anche il cachet. E loro il giorno dopo vennero nel paese dove stavamo girando e recitarono se stesse, mentre invece la sollevazione delle donne virtuose del paese era accaduta veramente qualche mese prima, con un messaggio di, come dire, di assalto al fortilizio dove i due ragazzotti stavano consumando la loro prima esperienza amorosa. Rinfocolati da una predica furibonda dell'arciprete che io gli feci rifare tale e quale, ma il bello è che la gente era molto più disponibile. Il progresso ha inciso solo la superficie e per i maschi è possibile vedere qualche volta una donna come si deve e illudersi di amarla soltanto al cinema. E che movimento di anca! Formidabile anche il zaballo del seno! Ricordate quello che hanno detto le autorità. Ma quando ti mena troppo il bacino, tu ci metti la mano, capito? Ciccio! Ma quanto è buona, kid! L'arciprete sta cercando di far capire che cos'è l'amore lecito. Non quell'amore che si esterna in balli che sanno di selva, timballi cui fa eco la canzone, e tante volte la canzone è un urlo di belva che sta nella sera. Ugo Gregoretti, il discorso dell'arciprete esattamente era così, con queste allusioni alla belva, alla selva? Sì, sì, era proprio rispettato alla lettera. Io avevo fatto l'oversound come... Perché non si capiva nulla, se no. No, non si capiva. Perché c'è l'amplificazione bruttissima della chiesa. Sì, un'acustica terribile. Ma intanto le devote non dovevano capire le parole. Gli bastava contemplare l'espressione dell'arciprete. Stiamo parlando dei Nuovi Angeli, il film di Ugo Gregoretti del 1962. Gregoretti è la persona che ha appena parlato. Mi scrive un ascoltatore via SMS. Sentir parlare un italiano così forbito dal maestro è un vero piacere per le orecchie. Per favore, fateglielo sapere. Gliel'ho fatto sapere. Grazie. Ricordo che questo film sarà presentato domani, a 50 anni dalla sua uscita, e nella sua attuale scomparsa, che non se ne parla più, ma era un documentario fantastico. Non era un documentario, era un film fatto con un sistema molto particolare. Guardava, ascoltava, si faceva raccontare, scriveva a tempo reale una sceneggiatura, così, un brogliaccio, e poi girava. E questo film permise di far vedere un ritratto implacabile, impietoso, sarcastico del nostro paese. Nessuno se ne accorse e passò dalle maglie della censura. Domani sarà presentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, alla Sala Marconi, a Piazzale Aldo Moro, alle 16, e noi ci saremo. Giuseppe Sanzonna, volevo da te una forbita, se possibile, interpretazione. Abbiamo molto parlato, se ne parla molto, dei comizi d'amore di Pasolini, questa sorta di indagine sulla carnalità italiana. Rispetto a queste tranche che tu hai sentito, questa sorta di arretratezza italiana da un certo punto di vista, ancora forse presente, da manuale, i ragazzi che si fanno iniziare dall'anziana puttana che dice per te sono stata come una madre, perché la rinnegano a un certo punto quando vengono le vecchie, è come io perdo l'onore se mi faccio trovare assieme a una donna perduta, dice sei un cialtrone, io che t'ho fatto da madre. La cosa meravigliosa di questo film è la capacità di in pochissimi giorni di creare, partire dalla presa diretta ma rielaborare attraverso la recitazione, attraverso i codici cinematografici usati con grande abilità. C'era Tonino De Nicoli alla fotografia che crea dei chiaroscuri caravaggeschi meravigliosi nell'episodio che ascolteremo dopo, che Antigiano, con queste facce da romanzo di Federico Tozzi, del Podere, e quindi una grande capacità di usare il linguaggio cinematografico e di parlare appunto di questi volti siciliani che sembrerà anticipano quello che sarà poi Cipriano Maresco, ma c'è una grande pietas, c'è un grande amore verso quello che si sta raccontando, rispetto a Comizi d'amore, che invece è più un documentario che fa delle interviste dirette alla gente, racconta un po' la visione di quello che era la arretratezza e di quello che anche è la collisione fra diverse regioni dell'Italia, la Sicilia. Cos'è la differenza rispetto al giornalismo cosiddetto d'inchiesta o impegnato d'oggi? È manicheo, non c'è pietà per i diversi, per quelli che non la pensano come noi. Noi siamo cattivi, ma solo con quelli che ci stanno sulle palle. Gregoretti è super partes, guarda, cioè, tutti con lo stesso sguardo ironico, ma anche con la stessa cattiveria. E poi ci ha raccontato fuori onda una cosa bellissima, che lui ricavava i dialoghi dalla realtà, dalla cronaca, da quello che era accaduto, e poi li metteva in bocca agli attori. Ma ci metteva in bocca anche citazioni letterarie, come quella di Hemingway che ci ha raccontato prima, se vuole ripetercela, che ci interessava molto. E questo quando il capo famiglia rassegnato diceva va bene, abbandoniamo la terra, andiamo in città, e poi dopo faceva una riflessione parlando a se stesso e dicendo non mi preoccupo tanto per gli ulivi, perché gli ulivi resistono, ma le viti poverine in un paio d'anni moriranno. E questa è una frase che io avevo preso pesolo, come si dice a Roma, da Per chi suona la campana di Hemingway, quando i contadini stanno per abbandonare la terra. E nessuno se n'è accorto, io mi sono ben guardato dal farlo sapere. Questo è un passaggio fondamentale, perché spiega come a un certo punto, con le leggi della mezzadria, si stava cambiando, le campagne si svuotavano, tutti andavano a lavorare in città. E l'anziano contadino che si vede anziano, poi la moglie aveva 40 anni, sembra una vecchia di 90 anni, dice a un certo punto c'ho 43 anni, dico mamma mia, mi sono spaventato, non ho avuto pochi di più. Beh, si rende conto che i figli tradivano quella terra, e lui, la frase che diceva prima, dice se io me ne vado l'ulivo durerà un po' di anni, ma la vigna dopo 2 anni muore. Tu lo sai, ormai non c'è più nulla da fare, ma un pretendere a mia e io ritorni via a lavorare, io non ci torno. Vedi, la terra non è che io la odio, ma mi fa ridere, capito? A me non me ne importa più nulla. Ma di un po', ma te lo trovo un altro giovane come me che lavora ancora la terra? In nessun posto. A miei tempi se ne trovavano tanti. E a tempi d'oggi non se ne trovano più, guarda un po', perfino le donne ragionano diversamente. Vanno tutte a fare le confezioniste. Confezioniste? Ma non solo. Un contadino non se lo sposano mica. Chiedo la consulenza della mia sorella, diglielo tu. Ah, io prima di prendere un contadino rimango tale e quale come sono. Ha parlato la baronessa Ricasoli. Senti un po' sta scema. Ma è esattamente questo. A un certo punto gli italiani si risvegliarono da secoli e secoli di rapporto con la terra, di predestinazione che non potesse essere cambiata rispetto ai ruoli, rispetto alle città d'origine, rispetto alle professioni che si passarono di padre in figlio, e si emanciparono. Questo fu il boom economico, ma fu anche il contraccolpo delle campagne abbandonate, di un terziario che cresceva sempre di più, e di un'Italia ci troviamo oggi fatta soltanto di intellettuali laureati in scienze della comunicazione, di persone che vogliono un posto fisso, e le campagne che nemmeno se ne parla più, coltivate da allevatori indiani o da personaggi che vengono da paesi lontanissimi. Antonio, buongiorno. Buongiorno Antonio Allegrini, salve a tutti. Io sono rimasto basito dal dialogo siciliano che si sentiva dal film di cui state parlando, del boss che va a parlare con l'onorevole per un pezzo di lavoro, ed è la stessa cosa praticamente che mi è successa a me anni fa. Io sono nato e cresciuto a Capaci, in provincia di Palermo, un posto che conoscete. Passato ahimè la storia, sì. Sì, praticamente dopo aver perso il lavoro per l'ennesima volta, a 27 anni, un giorno stampo una serie di curriculum, mi metto in moto, me ne vado a Palermo in giro, sono un informatico. Entro in una grossa realtà di informatica, parlo col tipo che volevo, insomma, cercavo lavoro, chiamarono il titolare, il boss, non so chi era. Sto tipo si avvicinò a me, mi guardò prima, mi chiese chi ero, poi senza nemmeno aver visto il mio curriculum mi disse: ma lei chi la manda? E gli disse: nessuno, io sono venuto a cercare lavoro. E quella lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, me ne sono andato alla Sicilia. Quindi a sentire che già 50 anni fa era così, il male viene proprio da lontano allora. Ma questo è il senso per cui questa mattina riascoltiamo capillarmente questo documentario. A me è anche sorpreso, a parte che tutti poi avevano la stessa raccomandazione, lo stesso onorevole, quindi erano tutte annullate. Anche quello era vero. Era vero, sì. Lo stesso onorevole ha fatto la raccomandazione a tutti. Ma sono i test attitudinali per cui il povero ex guardiano di Capri doveva entrare in fabbrica. Non riusciva nemmeno a mettere dei numeretti dentro delle fessure con il numero corrispondente. Erano esattamente quelli i test? Sì, quello perlomeno che avevano messo a nostra disposizione per ricostruire un uso che era già stato. Quindi alle soglie dell'analfabetismo proprio, non sapevano riconoscere nemmeno i numeri. Era quello, diciamo, il grande passaggio che ci fu a quel tempo. Certo. Nemmeno questa vicenda, diciamo, della raccomandazione degli onorevoli, delle collusioni, le creò problemi per questo film? No. No, perché era al cinema si poteva raccontare tutto. Stranamente tutto quello che era contenuto nei Nuovi Angeli passò. Andiamo avanti, risaliamo l'Italia lungo il viaggio di Gregoretti, sennò sembra che parliamo soltanto di Meridione. Mi mandi un giro? Dai. Ma proprio Alberto? No, Alberto. Ma dai, giura. Giuro. E dove? In fuoribordo. E come l'hai imbarcato? Ieri sera al Pariolino. Stavamo balando e me lo sono rimorchiato. E te lo sei papato subito? Lo credo, che aspettavo te. Potevi. Troppe ragazze oggi si prostituiscono per un matrimonio di interesse, ma io non riesco a capire questa mentalità. Non so, una può diventare la signora tal dei tali, però rimane sempre. Ecco, in quegli anni il centro dell'emancipazione femminile era la Riviera Romagnola, in cui venivano le straniere con il calepino, con i nomi dei montatori italiani, se li sceglievano uno a uno e si rifacevano seguendo il tour delle loro amiche dell'anno prima. Le ragazze erano piuttosto disinibite, passavano una notte insieme a un ragazzo per il solo piacere di starci assieme. Era esattamente così. Sì, era esattamente così, con delle sfumature, e forse ancor più che sfumature, che diversificavano i differenti litorali. La Riviera Adriatica era un litorale eroticamente popolare, e quello più raffinato ma non meno peccaminoso invece si svolgeva sul Tirreno, e il centro fulgido di tutto questo era Forte dei Marmi, il Night, la Capannina, e noi restammo un po' indecisi, tutte e due non potevamo farli. Poi alla fine optammo... Quello più pop avete fatto. Quello più pop, più, se vogliamo, più divertente. Ma cosa era data la differenza? C'era un'anima laica imperante che aveva fatto sì che ancora non ci fosse l'arciprete da decidere le costumanze dei suoi parrocchiani? Ah, non lo so, perché poi, tra l'altro, i comuni e la Riviera Adriatica erano stati lungamente assoggettati al dominio pontificio, quindi avrebbero dovuto, in realtà, come diciamo così, l'ascito di questa lunga dominazione, i papalini avevano lasciato un odio tale nei loro confronti che ancora non si è placato, io penso. Ha creato una sorta di contaminazione genetica per cui da quelle parti le cosce erano più allegre. Lo promettiamo! O Gesù, nostro divino fratello operaio, mentre l'eresia del materialismo e dell'egoismo corrode, oltraggia e divide il travagliato mondo del lavoro, noi a Cristi vogliamo dirti tutto l'impegno e tutta la donazione perché tu possa ritornare nelle nostre officine, nei nostri campi, per questo lo promettiamo di penetrare portatori di vita di ogni luogo, nelle fabbriche, nelle officine, nei campi, ovunque. La scena avviene così: in un castello milanese, di giovani con delle candele in mano in processione, sembra quasi una riunione del Ku Klux Klan. Fanno la loro professione di fede, sono i giovani delle Acli che si ripromettono di scendere nelle officine, nei campi e riconquistare le anime perse per il bolscevismo. Questa è fantasia, Ugo Gregoretti, o realtà? Oh, questa è realtà. Sembra uno dei convegni di questi ultimi giorni in cui le nuove forme politiche si ricostituiscono, ma le Acli allora come oggi? Ci avrò messo qualche candela e qualche torcia in più per fare più diabolicizzare appena appena la visione, però era la preghiera dei giovani aspiranti operai delle Acli che si accingevano a entrare in fabbrica. Infatti questo castello in una località della Lombardia di cui non ricordo esattamente il nome, mi pare Galluzzo, Minguzzo, era un campo scuola delle Acli, era di proprietà delle Acli e quindi durante l'estate si svolgevano corsi corsi per istruire questi giovani che poi avrebbero svolto un'attività sindacale all'interno della fabbrica. Molti poi fecero parte della classe politica dei successivi 20-30 anni, forse anche della futura nei prossimi 20 anni. Sì, ma poi il bello è che le Acli evidentemente non hanno colto fino in fondo la vena così di canzonatura. C'è la presa per il culo totale che c'era, diciamo la verità. Beh sì, diciamolo pure. E delle volte lo hanno riproposto in loro convegni come documento. Ah, come se fosse un loro documento. Edificante della loro attività. Era andato oltre la loro volontà. Giuseppe Sanzon. Qui c'è la sacralità della fabbrica in questo film, ma anche in altri episodi, quello siciliano, quando gli operai arrivano e il loro stupore davanti a questa cattedrale meravigliosa, la classe contadina che vede queste creature gigantesche. Beh, era una religione che si sostituiva all'altra. Certo, e anche il lavoro che lui fa sui linguaggi, che riesce anche a rendere il parlato di queste ragazze riminesi che appunto usano un lessico, se l'è pappato, se l'è fatto, che è recuperato. Bevono la Coca-Cola con il biberon. Sì, se la era una cosa molto trendy ai tempi. Se la passano l'un l'altra. E si allenavano. Ma anche il linguaggio dei milanesi è una sorta di romanzo popolare polifonico che lui riesce a creare attraverso l'Italia, che ha una ricchezza anche di documento. Poi è bellissimo appunto il fatto che non sia colto la parodia da parte dell'Acli, è stupendo perché è talmente composto e acuto lo sguardo di qualcuno. La mancanza di senso ironico penso che sia proverbiale e risale di millenni rispetto a una certa visione della vita. Andiamo avanti perché adesso c'è il punto cruciale. Non vi dimenticate che noi siamo alla fine del 2012, già cominciano ad esserci i primi segni della fine del mondo che avverrà fra poco più di un mese e qualche giorno. Beh, già allora negli anni 60 c'era un'altra paura, la paura che forse la si è dimenticata, era della catastrofe atomica. E chi poteva? I ricchi di allora, quelli che facevano delle belle feste, si facevano il rifugio antiatomico. Il dispositivo d'emergenza, il pronto soccorso. Oh, la marmellata! Che c'entra? Sono le provviste, è tutto pronto per l'emergenza. Mio padre dice 12 milioni di vite eterne. Siamo i soli ad avercelo a Roma. Se può restare più di un mese qua dentro dallo sganciamento delle atomiche, il tempo sufficiente per far bruciare Roma e farla raffreddare. Dici delle cose spaventose. Ma perché spaventose? Non ti rendi conto che può essere la verità? Guarda, è stata prevista un'altra cosa. Se i russi bombarderanno San Pietro, noi ci troveremmo quasi al centro della sfera del fuoco. Allora, con questo dispositivo... Non bestemmiare! Ah, si vede che ancora non sai niente della psicosi atomica. Mia madre ormai è a un punto tale che aveva quasi convinto papà a vendere la villa e a trasferirsi a Grotta Ferrata, il più lontano possibile da San Pietro. Guarda, ha già salvato tutte le sue cose. Eh sì, perché i cosacchi avrebbero abbeverato i loro cavalli nelle fontane di San Pietro. Vede, Gregoretti, Roma Nord esisteva già dal 61. Er Batman, le feste con le teste di maiale. Già erano in questa festa della borghesia romana con il rifugio antiatomico. La ragazza timorata di Dio che dice non bestemmiare, ma va a farsi naturalmente trombare dal suo amico sotto nel rifugio atomico. La ragazza poi racconta della nonna, proprietaria terriera campana, che ogni estate si faceva fare delle trasfusioni di sangue delle proprie contadine. Che comprava dalle contadine, come una vampira, dice. Come una vampira. È attualissima questa lettura. I ragazzi erano esattamente come lei l'ha descritti. Non c'era nessun barlume di quella che 5, 6, 7 anni dopo sarà la generazione che creò, diciamo, il movimento di contestazione, guardando un pochino quello che fu il maggio francese. Ancora non c'era nessun barlume di differenza. I ragazzi erano vestiti come i loro genitori, ragionavano come i loro genitori, facevano esattamente le stesse sconcezze, le stesse sublimi operazioni dei loro genitori. Sì, in più cominciavano a fiorire i cosiddetti capelloni, ma qui siamo già nel 64-65, quando io feci l'inviato speciale al Cantagiro perché mi servivano un po' di quattrini per mandare i figli al mare, senza sapere che poi questi miei pezzi al Cantagiro, anziché andare meritatamente distrutti, sono stati conservati e oggi vengono riproposti, riciclati. Allora non era ricco che faceva televisione? Ah, sicuramente io era un mestiere come un altro. Sì, ma poi dipendeva anche molto dalla propria capacità di negoziare, che io non ho. Io ho sentito la ministra, quella che fa l'avvocatessa, che pare sia molto ricca, non mi ricordo. La Fornero? No, non era Fornero, è la ministra di Grazia e Giustizia. Severino. Sì, il ministro Severino. Severino, la quale ha detto, ebbene sì, io sono ricca, ma per merito, non per privilegio. Io mi sono appropriato di questo motto e l'ho adattato a me, sostenendo che io sono povero per merito, non per sortileggio. Adesso si considera povero. Me lo merito. Si considera povero? Beh, insomma... Diciamo, siamo ancora lì, questo è un grande privilegio. Però rispetto a chi ha raccontato porzioni del nostro tempo contemporaneo, e oggi si considera ricchissimo, lei è ricco perlomeno di una grande esperienza. Grazie Ugo Gregoretti, grazie Giuseppe Sansonna, ci sentiamo al CNR domani pomeriggio.